L'amore che mi dona chi? Che mi dona? Che so questa profitta, questa profitta? Questa è una fitta, questa è una fitta.